si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, da Alessio Maurizi. Eccoci qua, ben ritrovati col Si può fare, insieme fino alle 11. Una occhiata veloce alle prime pagine dei giornali di oggi, poi l'approfondimento con l'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale. Ritroveremo Armando Massarenti e subito dopo il GR delle 8 cominceremo con i nostri approfondimenti. Oggi conosceremo uno degli artefici del miracolo del Carpi, un imprenditore, manca a farla apposta, del settore del tessile, il distretto che lancia nell'Italia e nel mondo questa piccola zona dell'Italia, grande da tanti punti di vista, lo scopriremo insieme. Poi avremo in studio con noi Davide Van der Vros, la persona giusta da ascoltare in questi giorni, non solo perché va avanti con il suo format Terra e Acqua alla riscoperta delle città della Lombardia, dei piccoli luoghi, dei piccoli centri da riscoprire, ma perché ha appena concluso il suo tour nelle 12 città lombarde per presentare Expo. E quindi, mai come adesso, è giusto ascoltarlo e sentirlo. Questo dopo il GR delle 9, adesso cominciamo con i giornali, vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, Milano da tutti i punti di vista sui giornali di oggi, dopo la pausa del primo maggio, gli echi delle violenze in città, ma anche i risultati sopra le attese di Expo, con insomma tanti visitatori in un clima comunque positivo. Cominciamo con il Corriere della Sera e il titolo è questo: Milano cancella la ferita dei violenti, in tanti ripuliscono le strade e i muri, Pisapia dice risorgiamo, e Alfano i cortei sono a rischio, più poteri ai prefetti. L'intervista al ministro dell'interno Alfano la vedremo tra un attimo. Renzi parla di 4 teppistelli, figli di papà, non riusciranno a rovinare tutto. Pare che questa affermazione di Renzi non sia casuale, perché dalle immagini, lo conferma anche il ministro Alfano, si vedrebbero alcuni di questi black bloc o idioti neri, come li ha definiti in parte della stampa, con dei Rolex addirittura al polso. Ma anche dalla dichiarazione di alcuni di genitori che sono stati poi raggiunti dopo che i figli sono stati fermati in questura. Andiamo subito allora sì con l'intervista ad Alfano. Cortei, divieti come per gli ultras, dice Angelino Alfano, che dice la manifestazione del primo maggio, questa è l'autodifesa, l'abbiamo sentita anche in audio ieri, poteva essere un altro G8, i contestatori avevano deciso di assaltare l'Expo Gate di Piazza Cadorna per poi arrivare al teatro alla Scala, questo era il peggio, dice, lo abbiamo evitato perché di un altro G8 non si è trattato in termini anche di bilancio di vittime, e questo è il punto di vista di Alfano. Renzi dice che erano 4 teppistelli figli di papà, è proprio così, mi pare anche che ciò emerga addirittura dalle dichiarazioni di qualche genitore, specifica Alfano, oltre che dai video girati dalla polizia in cui si vedono giovani con i Rolex ai polsi. Bene, sì, non so come abbiano fatto a vedere fino a quel livello di dettaglio, ma se lo dice Alfano è così, deve essere vero. Prosegue il ministro dell'interno. Poi ovviamente c'erano anche i farabutti, che certamente non erano la prima esperienza, cioè i professionisti della devastazione, chiamiamoli così. Perché non li avete fermati prima? La domanda che si sono fatti in tanti. C'è stata una robusta attività di prevenzione con 2 arresti, 52 denunce, 32 espulsi, tantissimo materiale sequestrato. E il bilancio sarà ulteriormente positivo per chi indaga, fa capire Alfano. Allora, ognuno giudicare se questo bilancio fino ad ora è importante. 2 arresti, 52 denunce, 32 espulsi, che però sono rimasti quasi tutti in circolazione, perché essendo comunitari queste espulsioni non potevano essere efficaci istantaneamente. C'era bisogno di alcuni passaggi burocratici col consolato francese, che ha un po' dormito. Perché non avete disposto la sospensione di Schengen? Altra cosa che si sono chiesti in molti, in modo da evitare l'arrivo degli stranieri. Risponde Alfano: perché si erano dati appuntamento dopo la devastazione di Francoforte durante il vertice della BCE un mese e mezzo fa, non potevamo chiudere le frontiere per settimane, ma soprattutto non volevamo potevamo creare difficoltà ai visitatori di Expo. Un giudice di Milano ha ritenuto di non convalidare la domanda, è questa, alcuni provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri. Questo ha creato un danno all'attività di prevenzione, discorso che facevamo prima. Risponde Alfano, noi facciamo il nostro dovere, preferisco non commentare le scelte dei magistrati. Due personaggi in questa vicenda restano diciamo negli echi delle polemiche. Uno è Mattia, il ragazzo che si è presentato davanti ai microfoni di Gcom 24 a dire è giusto spaccare tutto, è una protesta e noi dobbiamo far sentire la nostra voce, se non lo capiscono con le buone lo facciamo capire in un altro modo. Avete visto anche questo probabilmente, Mattia San Germano, 21 anni, che ha detto io non ho spaccato nulla, però era giusto spaccare tutto. Questa è stata la dichiarazione disarmante, che poi è rientrata dopo che evidentemente è tornato a casa. Sentite la dichiarazione del padre, prenderlo a sberle come ha fatto la mamma di Baltimora, devo essere onesto, quattro schiaffoni gliel'avrei anche dati volentieri, però mio figlio ha 21 anni, cosa avrei risolto così? Ci ho pensato e mi sono trattenuto. Mio figlio non è uno sbandato, è semplicemente un pirla. Sicuramente sarà un pirla, ma forse quattro schiaffi glieli puoi dare lo stesso, soprattutto se ha 21 anni, pur avendo 21 anni è un pirla, quindi probabilmente l'età vera è inferiore ai 18, quindi sei ancora autorizzata a darglieli quattro schiaffi. Poi Mattia torna davanti ai microfoni della televisione e dice non ho spaccato nulla né incendiato auto, chiedo scusa a tutti, ho usato un linguaggio sbagliato, non andrei mai a spaccare l'auto di qualcuno, darò una mano per pulire. Darà una mano per pulire anche Fedez, il musicista e cantante che aveva difeso i Expo su Twitter, e adesso dice il mio dissenso travisato da quattro giornalisti cinquantenni, perché appena ci sono stati gli scontri a Milano qualcuno ha twittato tirando in ballo Fedez dicendogli adesso cosa ci dici dei no Expo, e lui ha detto cosa vi dico, che questi che stanno spaccando Milano sono dei cretini, ma difendo il diritto di essere contrari a Expo, perché un cretino è un cretino, non parla per tutti, è come intervistare Gasparri, dice Fedez oggi al Corriere, e pensare che tutti i politici siano come lui. E del fatto che quel ragazzo magari potrebbe essere un suo fan, perché ho esortato a spaccare le vetrine, può essere un mio fan come di Ligabue o di Jovanotti, sono diventato uno dei capri espiatori dello scempio del primo maggio da cui mi dissocio, non mi dissocio invece dalle motivazioni dei manifestanti civili che protestano contro la gestione dell'Expo. Lasciamo per ora questo capitolo, andiamo su Repubblica, Milano la rivolta antiviolenti, il titolo è sempre quello, poi c'è la foto notizia con William e Kate, cambia la successione, ecco la bimba per William e Kate, Londra sogna un'altra Lady Di. Questo è il recupero della notizia vecchia, ma come ripeto, col primo maggio non c'erano i giornali, non c'era sciopero ma non c'erano i giornali, quindi i giornali oggi recuperano anche sulla vicenda del Milan, per esempio con un'intervista a Mr. B dopo che si è presentato con Berlusconi davanti ai taccuini, ai microfoni dei giornalisti, oggi su Repubblica l'intervista, e chiarisce così alcuni aspetti. È interessante questo uomo d'Oriente che vuole acquistare il Milan, ma Berlusconi ha detto resto io al comando. Intanto la prima domanda è, ingegnere, comincia da lei la fine dell'era Berlusconi al Milan? Non è così, Berlusconi è l'uomo che ha fatto grande il Milan e al Milan resterà legato per sempre. Ma allora perché, è quello che si stanno domandando in molti, investire lasciando intatto il vecchio management? Il motto non è cambiare, dice Mr. B, ma aggiungere, internazionalizzare. I dirigenti devono essere italiani e non voglio fare il presidente, sono un investitore. Nessuno tocca figure centrali come Galliani e Barbara Berlusconi. C'è però la sua passione per Paolo Maldini è nota, ha sponsorizzato anche una serie di attività che lo vedevano coinvolto. Le leggende, dice Mr. B, sono una risorsa, un modello per i bambini, vedremo. Però c'è incompatibilità tra Galliani e Maldini. Parlo in generale, dice Mr. B, le persone di valore competenti possono eventualmente andare d'accordo. Frase sibillina che vuol dire che lui invece vuole che Maldini entri a fianco a Galliani. Il bene del Milan viene prima di tutto. Poi sui soldi, il deficit del Milan oggi è 91 milioni di euro. Per competere in Europa servono investimenti pesanti, quindi bisogna andare oltre quella cifra. I problemi finanziari, dice anche qui con una frase lapidaria Mr. B, si superano. Conta di più la programmazione. programmazione. Adesso vai con una buona notizia. And now the good news. Allora, visto che siamo in clima di Expo e di iniziative per difendere la sostenibilità del pianeta, c'è una iniziativa che viene dagli studenti di un liceo di Brindisi, hanno ideato una impresa, una start-up che si occupa di recuperare acque e oli, carburanti usati dalle imbarcazioni in mare che inquinano, come sapete, spesso, purtroppo e volentieri, o malvolentieri, non lo so, le acque del mare. E allora ad Innovation Game è presentato questa startup che si chiama Recol o Recol, che traduce in olio combustibile, acqua distillata e sale gli scarti liquidi delle imbarcazioni. Una iniziativa piccola, iniziativa imprenditoriale che però va nel senso della sostenibilità, viene dal nostro sud ed è una buona notizia. Traffico. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta... Io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati col Si può fare. Questo è il momento di andare a curiosare tra le pagine di Inserto Culturale, Il Sole 24 Ore, Il Domenicale, e c'è con noi naturalmente Armando Massarenti. Ciao Armando, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti. Eccoci qua Armando, oggi dove ci guidi? Ma guarda, intanto la copertina di questa settimana annuncia una nuova iniziativa, anzi il ritorno di una iniziativa di successo che era strettamente legata alla domenica, che erano i racconti d'autore, cioè dei piccoli volumetti di un'ottantina, un centinaio di pagine con racconti di grandi protagonisti della letteratura italiana e internazionale. E quindi insomma è un doppio ritorno, nel senso che Andrea Camilleri ritorna con questa sua sagoma fatta da Scarabottolo, molto bella, un disegnino in cui lo tratteggia proprio di spalle mentre fuma, e ritorna con l'incipit di quello che sarà il racconto della settimana prossima, Il Medaglione, dove sentiamo proprio il modo della narrazione di Camilleri, cioè una narrazione breve, una narrazione da cantastorie, come scriviamo nella presentazione di questo primo volume. Poi ce ne saranno molti altri, nel senso che lui dice, c'è in casa sua questo grande disegno dove ci sono le varie inquadrature che usavano appunto i cantastorie siciliani nelle piazze, e dice questa è la mia poetica, no? Ma in fondo è un po' la poetica a cui ci vogliamo ispirare, anche poi proponendo di settimana in settimana racconti anche dei classici, anche Melville, anche Conan Doyle, anche George Jorge e Luis Borges, anche poi Caro Figlio per arrivare ai contemporanei, eccetera eccetera. Quindi ogni settimana proporremo una lettura, appunto perché leggere è appunto qualcosa che poi, una volta che si inizia, non ci molla più, come abbiamo sentito poco fa. Però ecco, ci sono tanti altri contenuti nel nostro numero. Sempre a proposito di romanzi, abbiamo il nuovo romanzo di Antonio Scuratti, Il tempo migliore della nostra vita, che è recensito da Fossi, una ottima prova narrativa appunto di uno dei nostri maggiori scrittori italiani, in cui cosa fa? Fa un'operazione molto interessante e molto intelligente, cioè racconta la vicenda di un grande della storia italiana, Leone Ginzburg, quindi la guerra, quindi le tragedie, ma queste stesse tragedie sono vissute dalla famiglia assai più comune, che è proprio la famiglia dello scrittore. Quindi nel romanzo si alternano queste vicende, le stesse vicende della storia, dove c'è una sorta di autofiction, no? Da parte di Scuratti, racconta se stesso, ma lo fa attraverso appunto la storia. Possiamo proseguire con altri argomenti. Una cosa molto sofisticata, molto interessante, è quella di che ci racconta Lina Bolzoni, la nostra collaboratrice della Normale di Pisa, che ha curato un volume di Adelphi che parla di un mitico teatro del Rinascimento, nel senso di una costruzione che Giulio Camillo, che era l'autore, avrebbe voluto realizzare, ed era il teatro della memoria, no? Dove tutte le arti, a partire dall'eloquenza e poi tutti i saperi, potevano essere rappresentati in un unico luogo. Abbiamo anche qualcosa su Turandot, che è stato protagonista della tesissima Expo, inaugurazione musicale di Expo. Abbiamo una pagina anche su questo. Sì, poi a proposito di Expo, certo Turandot l'abbiamo ricordato, ma abbiamo ricordato anche, c'è una pagina molto bella di che parla della Fondazione Prada, perché il 9 di maggio ci sarà, si aprirà un intero nuovo insieme di edifici, neanche solo un edificio, cioè la nuova sede della Fondazione Prada, qualcosa di veramente notevole e mastodontico. Ce ne parla della parte, diciamo, più architettonica, Pia Capelli, ma ci sarà una mostra che è particolarmente originale, interessante, e il curatore, Salvatore Settis, che è un nostro collaboratore, ce la racconta. Si chiama Serial Classic. Prima parlavamo in fondo di Gialli, no? Camilleri ed altri, certo. Caro figlio, qui parliamo di Serial Classic, ma titolo un po' ironico, ma per dire una cosa interessantissima, cioè che nell'antichità le statue erano già dei serial, cioè c'erano moltissime copie, sia perché nel gusto di allora, già dell'antica Grecia e poi dell'antica Roma, anche c'era il gusto proprio di metterne due, tre, a volte quattro copie di una stessa statua identiche, e poi perché, siccome molte statue erano in bronzo, nell'antichità greca, questo ce lo spiega Setti nel suo articolo, sono state poi perse, fuse durante il Medioevo, ma si sono salvate le copie greche perché i romani amavano molto appunto copiarle, no? C'erano moltissime copie romane. Ecco, questa mostra fa vedere molto bene come appunto la serialità, che sembra un concetto molto moderno, no? Dell'arte contemporanea, della riproducibilità tecnica, se vogliamo, no? Dell'opera d'arte, fosse in realtà un concetto antichissimo. Quindi, parlando dell'antichità, ci parla di qualcosa di molto moderno, di arte moderna. E poi ci sarà una cosa molto interessante e curiosa, cioè i famosi pronti di Riace, no? Che sono, sì, stati al centro delle dispute, portarli, questo, non portarli, non eccetera. Portarli. Qui sono uno di questi, è realizzato in una maniera che sorprenderà moltissimi, perché, come molti sanno, le statue greche erano colorate, no? Noi le vediamo bianche o solo di bronzo perché i colori si sono persi, ma c'è stata una ricostruzione da parte degli archeologi e dei tecnici, dei chimici, proprio dei colori attraverso i piccoli pigmenti che sono avanzati, no? Sulla una di queste statue, e una copia di queste statue viene interamente ricolorata, quindi vedremo appunto un bronzo di Riace, uno dei più belli in quello serie, che poteva essere il suo originario splendore. Un motivo, esatto, tra l'altro, in più per venire a Milano, insomma, questo di questa esposizione che ci sarà, Fondazione Prada, quindi Expo Milano, sempre più al centro dell'Italia e del mondo. Armando, noi ci salutiamo qua perché tra poco abbiamo il giornale radio che arriva. Grazie per essere stato con noi. Ci ritroviamo naturalmente domenica prossima. Ciao, buona domenica. Buona domenica. Invece con voi, cari ascoltatori, così può fare. Ci risentiamo tra poco, dopo il giornale radio delle 9, il miracolo Carpi, e poi più avanti avremo in studio con noi Davide Van de Sfrossa. Dopo. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica. Cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare insieme fino alle 11 anche questa domenica. 800 24 00 24, se volete intervenire per parlare con noi, per commentare quello che sentite, per giocare, per fare tante cose. C'è il tempo bigio oggi a Milano. Milano-Monterosa, tempo molto, molto nuvoloso. Bigio, nuvoloso, con un po' di pioggerellina. Non sono venuto in motorino e quindi non ho fatto la mia classica foto che faccio. No, ma e non posto piove, però, non piove, non diamo informazioni pericolose, sbagliate. Qualche gocciolina. In realtà io l'ho sentita. Lo poi chiederemo non lo so, tra forse... poco a Davide Van de Sfross quando sarà con noi in studio, ma tra un po'. Perché pochino, noi in realtà dormiamo qua dentro, dobbiamo confessarvi questa cosa. Facciamo il weekend qua a lungo, iniziamo il sabato a fare Si può fare, che inizia alle 7:30 e finisce alle 10, poi stiamo qua per preparare le puntate della settimana successiva. Quindi avevo la sensazione che piovesse, ma in realtà è una grondaia che aveva un buchino evidentemente. Carlo, ti devo dire una cosa straordinaria. Vai. Ieri sono stato a Expo, sì. Giorno numero 2, grandi emozioni, bellissimo. Ti invidio un sacco perché sì, non ci sono ancora stato. C'era la presentazione di un'iniziativa di cui secondo me sentiremo ancora parlare, il passaporto etico per i prodotti agroalimentari, un'iniziativa che va nel senso di nutrire il pianeta e anche nel senso di difendere il Made in Italy. C'era pure il presidente della Lombardia Maroni, Expo bellissimo, una sensazione straordinaria, grandi spazi, collinette verdi, piante di tutti i tipi, gente giovane, anche quegli anziani quando sono lì sembrano tutti giovani. Perché mangiano bene forse. Sarà per quello. E quindi una bella sensazione, invito tutti ad andarci. Io ci voglio andare, quando finisce il mio book tour andrò anche a Expo perché voglio assolutamente assistere, vederlo. Ieri sentivo anche qualcuno che diceva, perché insomma secondo me ci sono anche valide motivazioni per il no Expo, per chi dice che sì, forse l'Expo ha creato dei problemi, certo, la questione della corruzione, tutto quello che sappiamo, però è anche vero che è un'occasione pazzesca, che è la classica cosa che se fosse in un'altra città partiremmo tutti per andare a vederla. Invece siccome qua di fianco a noi, a Rho, c'è sempre questa sensazione che dice ma no, sarà una cosa, invece è veramente una vetrina di tutto il mondo ed è veramente un posto dove tu cammini e incontri le culture di tutto il mondo, il cibo di tutto il mondo. Mi sembra assolutamente da andarci, ecco. Tra poco, come prima buona notizia della settimana, andremo ad approfondire il miracolo Carpi. Fino a qualche giorno fa credo che il 90% degli italiani neanche sapevano dov'era Carpi, forse. Sono felicissimo di questa cosa che mi dici, anche perché oggi andrò a quelli che è il calcio e sono agitatissimo per questo. Vedi, così ti prepari un po' sul Carpi in Serie A. Esatto, anche perché mi sa che io l'anno prossimo tiferò Carpi, nel senso che come si fa a non tifare Carpi? Beh, il Carpi sta venendo in Serie A, è la squadra per cui anche, se non ricordo male, anche Tavecchio quando fece le sue esternazioni disse il Carpi sarebbe la rovina, non arriverà mai in Serie A, e invece sta arrivando in Serie A, si meritano tutto quello che stanno facendo. L'incarnazione del miracolo italiano nel 2015. L'incarnazione si può fare, quindi può fare, noi sì, direi che entro l'anno prossimo dovremmo riuscire ad avere tutto il Carpi ospite in studio qua. Oppure con noi trasferiamo a Carpi per trasmettere direttamente da là. Poi avremo Davide Van de Sfross con noi dopo, insomma, alla fine di questa ora, nell'ora successiva. Un bel momento per risentirlo, per ascoltarlo, Davide Van de Sfross, che è in giro con il suo format Terra e Acqua, la riscoperta delle partite, particolarità della Lombardia, ma che soprattutto ha appena finito anche il suo tour nelle città lombarde a presentare Expo proprio, ha avuto anche questo incarico da ambasciatore, e quindi è bello parlarne con lui proprio in questi momenti. 800 24 00 24, c'è anche il gioco, cerchiamo sempre un nostro personaggio della settimana. È arrivato il momento di dare il primo indizio. E sta a te, come tocca ben sai, sempre a me Alessio, dare il primo indizio. Allora, diciamo questo: partiamo un po' larghi, però pensateci bene, perché è un indizio, cioè un aiuto, non è una cosa per confondere solo l'idea, è un aiuto. Il personaggio della settimana è un leader. Perfetto. 800 24 00 24. Abbiamo avuto indizi molto, molto più laschi e molto più larghi. Direi che questo è, ha una sua precisione. Vai. Down the days of fear, chasing down a dream before it disappeared. By you, brand new, and we were pilgrims on our way. I woke up at the moment when the miracle occurred. Heard a song that made some sense out of the world. Everything I ever lost now has been returned. questa Miracle degli U2 per parlare naturalmente di questo piccolo grande miracolo italiano, splendido miracolo del Carpi. Abbiamo in collegamento con noi Gian Guido Tarabini, amministratore unico del gruppo Bluefin, di cui fa parte il più noto brand Blue Marine, uno che è lo sponsor della maglia del Carpi, una delle grandi aziende di questo distretto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua, insomma, a festeggiare anche noi dopo che varie trasmissioni hanno in qualche modo reso onore anche dal punto di vista sportivo. Abbiamo sentito parlare il sindaco, insomma, stiamo scoprendo tutta Carpi e adesso vogliamo scoprire anche gli imprenditori che ci stanno dietro, perché insomma è stato detto, adesso sì, lo affronteremo insieme a lei, dietro a questo miracolo sportivo c'è un tessuto imprenditoriale importante. Intanto, quando avete iniziato la stagione come sponsor del Carpi, pensavate di arrivare fino a questo punto? No, proprio no, sinceramente assolutamente no. Lode all'onestà. Certo, poteva dire no, sì, avevamo in testa di fare questo e quell'altro. No, assolutamente inatteso. No, beh, devo dire che porta anche fortuna a dire certe cose in stagione, nel senso che l'anno che andammo su un D, dopo che avevamo fallito il primo tentativo, uno spareggio con la Pro Vercelli a Modena, ci presentammo io e il presidente Cagliumi a dire che insomma avremmo fatto un campionato decente, ma l'obiettivo della salvezza è andarmi in D. L'anno scorso non abbiamo detto quello, ma abbiamo detto che ci sarebbe piaciuto ripetere la prima stagione, comunque in D era stata una discreta stagione, da mezza classifica, mezza alta. E dopo, partita dopo partita, i ragazzi, la società, i dirigenti, insomma, l'entusiasmo in città è arrivato un miracolo. E qui, insomma, non vi aspettavate ad arrivare fin qua, però avete programmato, avete lavorato molto in questi anni, un'ascesa straordinaria, diciamo, vi aspettavate di fare un onesto campionato, insomma. Noi ci aspettavamo di fare un onesto campionato perché la società veramente forse nascosto, qualcuno ci pensava ma non osava nemmeno dirlo. Ma anche perché è un risultato straordinario anche semplicemente essere in B, perché ricordiamo che il Carpi, se non sbaglio, mi corregga se sbaglio, fino a 4 anni fa era nell'eccellenza, quindi è stata un'ascesa incredibile negli ultimi anni. Sì. Io ho cominciato col Carpi a sponsorizzarlo già 10 anni fa e abbiamo salito le categorie, poi è arrivato l'attuale presidente. Quindi 10 anni che siete insieme. No, dieci ed è importante anni. Ricordarlo, perché certo, è un progetto matrimonio, di fatica lungo. Anche, non è semplicemente che la fortuna che uno si sveglia la mattina e gioca in Serie A. Cioè 10 anni fa si è deciso un progetto, si è lavorato e si può fare, per dirla con il titolo della nostra trasmissione. Se ci si mette di buzzo buono si può fare e si arriva in Serie A, alla faccia di Tavecchio. Adesso sì, qua non lo commenterà Tavecchio, perché sennò adesso poi la Tavecchio noi forse l'avete già commentata questa cosa. No, abbiamo commentato lo sito, non Tavecchio. No, okay, però non lo commento qui. No, noi abbiamo cominciato 10 anni fa, quando il presidente non era ancora Stefano. Quando è arrivato Stefano aveva dei progetti ben più ambiziosi e secondo me aveva il potenziale per farlo, la capacità, le tutte vedute. Conosceva già il calcio, aveva preso questo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che era un ragazzo capace, ambizioso, voleva arrivare, aveva idee chiare e lo ha dimostrato. Sinceramente io allora, se mi avessero detto 7 anni fa, mi avessero detto che oggi saremmo andati in Serie A, ma forse anche solo arrivare in Serie B avrebbe considerato un traguardo proibitivo e assurdo. Io voglio leggere un passaggio dell'analisi di questa settimana sul Corriere di Dario Di Vico, che anzi ringrazio perché fa sempre delle analisi a cavallo tra società e distretti economici interessantissime, che è questo. Dice: una storia di successo che premia un territorio che ha saputo inventarsi nell'abbigliamento un nuovo modello di business e zittire i gufi che avevano pronosticato una seconda Prato, Carpi come Chinatown della Via Emilia. Storicamente la cittadina, 70.000 abitanti, dista solo 18 km da Modena, è stata al centro del distretto della maglieria e se non avesse cambiato marcia avrebbe potuto declinare rapidamente. In che cosa ha consistito questo cambio di marcia? Ma guardi, in effetti Carpi è un distretto importante per il test dell'abbigliamento da anni, poi ha subito varie trasformazioni, noi siamo stati tra i primi già alla fine degli anni 70, primi 80, a capire che dovevamo creare un modello brand, e questo ci ha fatto sì che abbiamo avuto successo per 30-40 anni e continuiamo ad averlo. Altri giovani imprenditori, come anche Bonaccini e altri che non so citare, comunque sono noti, Prisetto, Via delle Perle, eccetera, eccetera, hanno fatto la stessa scelta e è andata bene. E la città è una città che comunque, nonostante la crisi, non si può nascondere, è una città che viaggia bene, anche dopo la batosta del terremoto, che certo, è stata una botta grossa per tutti, sia psicologica sia del punto di vista del lavoro. Dicono che uno dei segreti, diciamo, di queste delle vostre, dei vostri marchi, delle vostre industrie del tessile, è quello di un po' sul modello di qualche altro grande competitor straniero, forse anche più grande di voi come multinazionale, di essere veloci e rapidi nel rispondere ai cambiamenti nel mercato. Cioè, presentate tante collezioni ogni anno. Questo richiede richiesto, come dire, un'innovazione di prodotto, sforzi, turni straordinari. Che tipo di lavoro avete fatto per arrivare a questo? Ma guardi, ognuno, ogni imprenditore è padrone a casa propria e fa delle scelte non sempre identiche, anche se siamo della stessa città. Noi ad esempio, come Blue Marine, lavoriamo su un settore, su un livello alto, e non prepariamo collezioni in continuazione. Ovviamente ci rapportiamo con quelli che sono i nostri competitor diretti. Altri fanno un altro tipo di lavoro, lo fanno egregiamente e devono continuamente avere trasformazioni, collezioni pronte per affrontare i momenti, le esigenze del mercato. Quindi non è che lavoriamo tutti alla stessa maniera, lavoriamo tutti nello stesso settore. Ok, vabbè, sì, è chiaro, perché poi ognuno ha le sue strategie di mercato. Le sue strategie, insomma... Temete in qualche modo, ora la notorietà non può essere una preoccupazione, anzi avrete un bel po' di visibilità, di pubblicità con la Serie A, per quanto riguarda il Carpi arriveranno anche dei bei soldini. Pensate in qualche modo che piccolo è bello, come si diceva una volta per l'Italia, temete in qualche modo un salto di qualità che possa snaturare tutto il distretto, oppure lo affrontate anzi con voglia di crescere? Ma io credo di no, perché noi siamo un gruppo di imprenditori, non c'è un imprenditore, un mega miliardario che può fare la squadra solo, che si mette le mani qualche straniero. Siamo un gruppo di imprenditori, tutti sui 40-50 anni, quindi abbastanza giovani, e nessuno credo che voglia fare il passo più della gamba. Penso che tutti abbiano la testa sulle spalle e quindi credo che non ci faremo ubriacare dai passi della Serie A. Poi chiaramente faremo il possibile per dare una grande ancora alla nostra città, rimanendo nella massima categoria. Questo poi ovviamente non sarà facile, perché ci scontreremo con delle realtà ben più grandi della nostra, con dei budget ben più alti dei nostri. Ma infatti quello che ci chiediamo è anche questo, nel senso, che cosa cambierà? Tipo, non so, le maglie cambieranno? Ma le maglie cambieranno? Questa è una domanda. Vabbè, ma le maglie era una battuta, nel senso che ci chiede. No, lo dicevo perché giustamente lei è lo sponsor, quindi delle maglie è anche interessato. Però mi chiedevo anche in generale che cosa cambierà nel momento che uno passa alla Serie A. Insomma, quando si passa alla Serie A si va a giocare proprio tra i grandi. Ma comprerete un sacco di nuovi giocatori o confermerete tutta la rosa che vi ha portato dalla B alla A? No, non credo. Adesso, a parte che secondo me, visto il lavoro fantastico che hanno fatto questi ragazzi, hanno creato un gruppo meraviglioso. Esatto, vanno premiati loro. Io, guardi, ho giocato a pallone a livelli ovviamente molto, molto inferiori, però ricordo che anche giocatori magari meno forti, se il gruppo è unito, tengono dei risultati. Verissimo, è un gioco di squadra. È un gioco di squadra, quindi se uno comincia a fare la prima donna, io non ritorno, perché sono picco pallino, crolla tutto il castello. E infatti quest'anno c'è una squadra con budget molto più alti del nostro, che hanno fatto molto peggio. Sì. Io credo che Giuntoli, Cristiano, sì, e anche il resto di Cagliumi, Patrone, Stefano, sappiano gestire il gruppo come l'hanno sempre fatto e sappiano premiare questi ragazzi, perché se lo meritano. Senta, che effetto le fa, Tarabini, l'arrivo invece di questo Mr. B, di questo personaggio che sarebbe l'ennesimo, che si sta inserendo di fatto nella gestione del Milan, forse non con la maggioranza delle azioni, ma insomma con una quota importante, il colosso asiatico, quindi un investitore, l'internazionalizzazione del calcio italiano, mentre voi, appunto, piccola stella, astro nascente, però insomma avete un orizzonte diverso, pur essendo gruppi internazionali dal punto di vista economico. Ma guarda, io intanto io dico, io sono figlio di un milanista, ma io sono interista. Quindi avete già voi l'avete già subita questa cosa qua. Noi ce l'abbiamo già, esatto, l'abbiamo già in casa. No, romanticamente io preferivo e preferirei che le grandi squadre italiane, come la Juve ancora, ma come anche il Milan, l'Inter, rimanessero in mano alle grandi famiglie dell'industria italiana, ma è un'idea romantica. Oggi il mondo è globale, investimenti da fare per rimanere a livello altissimo per l'internazionale sono tantissimi, forse da soli anche noi italiani, anche i più grandi industriali italiani forse non ce la fanno più, questo è un po' l'impressione. Da tifoso mi dispiace, io vorrei ancora Moratti come presidente, come interista, e se fossi milanista vorrei ancora Berlusconi, parte che mi pare che mantenga il 50%, almeno da quello che ho sentito. Sì, questo è quello che si dice al momento, poi chiaramente la trattativa è lunga. Ma quindi non poteva che essere così, però Tarabini, perché uno dei protagonisti di questa storia, di questo miracolo italiano che ha anche una vena di romanticismo, non poteva che rispondere così. Questo mi sembra giusto. No, mi chiedevo, siccome sono io sono romantico e proprio mentalmente sono fatto così, e nello sport in particolare, per quello che penso che Carpi sia veramente un bellissimo segno sport italiano. Condivido in pieno, e siccome sono anch'io interista le chiedo il permesso di poter passare anch'io al Carpi, nel senso che ho deciso da oggi di tifare Carpi e sono felice che anche lei, appunto, cioè, si può avere una fede interista e aver scoperto il Carpi un po' più avanti, giusto? È vero, bisogna fare così. Sì, io quest'anno mi sono divertito poi poco con l'Inter e molto di più col Carpi. Immagino, infatti io mi sono divertito pochissimo. Va bene, grazie Gian Guido Tarabini, grazie per essere stato con noi, l'amministratore unico di Bluefin. Per Blue Marine, sponsor insomma della maglia del Carpi, e così insomma abbiamo parlato di questa. Raccontato un bellissimo si può fare. Un bel si può fare, una bella storia. Naturalmente poi qualcuno dirà: ma avete fatto pubblicità all'impresa, Carpi, eccetera. Ma come si fa a non parlare di storie come questa, no? Naturalmente invece bisogna farlo. Poi, come abbiamo parlato con loro, abbiamo parlato anche con altri titolari di imprese. Non è questo il punto. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo per intervenire, per giocare con noi. Ripetiamo l'indizio del personaggio della settimana, abbiamo detto è un leader. E poi faccio una correzione, forse prima ho detto Tavecchio invece di Lotito, e era ovviamente Lotito. Mi correggo, ho sbagliato. Ma io. Era Lotito che parlava con Tavecchio? Sì, forse con qualcun altro. Insomma, per precisione non vorrei mettere in bocca la persona sbagliata. Era Lotito. Esatto. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Eccoci, buona domenica. Qua, cari ascoltatori, abbiamo in linea Laura che ci chiama dalla provincia di Modena, subito dopo aver sentito la storia del miracolo del Carpi, che è proprio in provincia di Modena. Buongiorno Laura. Buongiorno a voi. Buongiorno. E complimenti per la trasmissione, vi ascolto tutte le domeniche. Grazie. Pensavamo che ci ascoltasse solo quando parlavamo del Carpi, e allora siamo molto felici e la ringraziamo molto. Io chiamo da Nuovo Rangone, che è un'altra delle eccellenze della provincia di Modena per la salumeria. Certo. E non è in Serie A il Castelnuovo Rangone? No, non ancora. Peccato. Forza, dovete farcela ad andare in Serie A. C'è un nostro collega di Radio 24 che viene da quelle zone lì, però adesso non. Sì. Un collega di Radio 24. Adesso non dico il nome perché non voglio svelare particolari da privacy, però insomma, vabbè. Gli ascoltatori forse lo sanno. Sì, prego, Laura. Io volevo rispondere per il personaggio della settimana. Chi è? Tutto orecchi. Io ho pensato a Giuseppe Sala, il commissario per l'Expo. Sì, perché? Perché comunque insomma il leader è una persona che guida, lui ha guidato diciamo l'Expo all'obiettivo finale che sembrava molto difficile. Diciamo leader a modo suo, perché non è una persona estremamente carismatica, è una persona che però probabilmente nel senso letterale della parola, però forse sono i veri leader, forse. Chi lo sa, fine si è anche commosso quando ha parlato a Expo. Ieri l'ho visto nel mio piccolo percorso in Expo andare in giro con come si chiamano quelle macchinette che girano tipo per portare tipo quelle del golf. Tipo quelle del golf, esatto, che guidava lui da solo in giro per Expo, che controllava. Mi ha fatto funzionasse. Se non è un leader questo, però, che si mette lui sulla macchinetta e in giro a controllare gli ingressi. Comunque, Laura, ottima la risposta, ma il personaggio non che abbiamo lui. Scelto non era lui. Mi dispiace, grazie. Grazie mille per aver chiamato. Intanto, buona domenica. Con l'occasione, colgo l'occasione per ricordare che il premio che mettiamo messo a disposizione, anzi, questa settimana, questa domenica, dall'Associazione dei Comuni Virtuosi è un weekend al Bed and Breakfast Cherry Cat di Monte San Pietro, provincia di Bologna, comune virtuoso. Abbiamo ancora in linea Giovanni dalla provincia di La Spezia. Buongiorno Giovanni, ci sente? Pronto, sì, ti sento. Eccolo qua. Innanzitutto vi devo ringraziare per i vostri servizi. E io il GR24 la seguo giorno e notte addirittura. Di notte mi metto le cuffie perché altrimenti mia moglie mi... certo. Giusto. Sì. Lei vuol dormire e invece Giovanni vuole ascoltare la radio. Io sono molto informato perché fra computer e tutto l'altro sono sempre a seguire. Ma di notte non dorme mai Giovanni, lei? Di notte non dorme? Di notte non dorme lei? Dormo poco. Sarà pure l'età, ho 70 anni. Però complimenti. Però insomma cerchi di riposare un po', perché ci sentiamo in colpa se no, se tutti i sabati e tutte le domeniche la facciamo svegliare presto per ascoltare la trasmissione. Perché cosa aveva chiamato? Avevo chiamato per partecipare al personaggio della settimana. Ottimo, siamo tutti orecchi. Chi vuole che sia il personaggio della settimana? È Matteo Renzi. È Matteo Renzi. Matteo Renzi, perché grazie a Matteo Renzi che noi ora assistiamo a quello che stiamo assistendo sull'Expo, perché se non fosse stato per Matteo Renzi l'Expo non ci sarebbe stato, perché è riuscito a vincere tutte quelle opposizioni che lo contrastavano continuamente. Addirittura dice che tutto l'Expo è merito di Matteo Renzi. Viene da lontano, Giovanni, c'è stato Prodi, c'è stato Berlusconi, c'è stata la Moratti, un sacco di... Qualcuno ha anche detto che lui non ha nominato Prodi, che non è stato un grande gesto. Comunque, al di là della sua motivazione, la notizia su Renzi c'è sempre, ogni giorno, quindi non c'è problema. Però non era il personaggio che abbiamo scelto, eravamo però curiosi di sentirglielo raccontare. Di protezioni che ora non è che mi metto qui perché sarebbe troppo lunga, di protezione da parte di mia madre defunta, che era una santa donna, mi aveva visto tra l'altro anche la Madonna, dice lei. Ah, però. Che ogni tanto mi dà dei messaggi in sogno. Ah, quindi in sogno per comunicare con questi personaggi politici il loro orientamento. È bellissima questa storia, la raccontiamo è volentieri. Lunga, però. Infatti, immagino. Quindi la ringraziamo moltissimo di aver chiamato e proseguiamo. Grazie. Allora, 800 24 00 24, adesso è il momento di approfondire un'altra notizia di questa settimana. Come sapete, il Papa se l'è presa col fatto che le donne non è giusto che guadagnino meno degli uomini a parità di lavoro, e tra l'altro c'è un rapporto recente che è stato presentato qualche tempo fa che conferma proprio questo, almeno per quanto riguarda le donne in Italia guadagnano oltre il 7% in meno degli uomini. Noi vogliamo parlare con una donna importante, perché dopo Samantha Cristoforetti sullo spazio e Fabiola Gianotti al CERN, noi abbiamo Barbara Mazzolai che lavora all'Istituto Italiano di Tecnologia. Vai! Lately I see her ribbons. friends and her booze. Have fun from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. Bel pretesto per risentire Bob Dylan con questa Just Like a Woman. Buongiorno Barbara Mazzolai. Buongiorno. Buongiorno. Lei è coordinatrice del centro di microbiorobotica dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è una donna, una scienziata italiana di cui credo sentiremo ancora parlare. Protagonista di una, come dire, il suo gruppo di lavoro ha portato un'invenzione recentemente. Glielo faccio dire a lei di cosa si tratta. La prima pianta robot, hanno scritto, sì, i giornali. Sì, sì, è la prima pianta che prende, diciamo, il primo robot che prende ispirazione dal mondo vegetale, in particolare dalle radici delle piante, perché sì, quello che vogliamo realizzare è proprio un robot che si muove imitando le strategie di crescita delle radici, quindi un robot per l'esplorazione del suolo. Che potrà servire, qualcuno ha scritto, per cercare se c'è il petrolio da qualche parte, ma anche più semplicemente, una cosa che fa sempre notizia questa quando si parla del petrolio, ma anche più semplicemente e in maniera forse anche più importante, per bonificare territori, terreni che siano stati in qualche modo inquinati o cose di questo, sì, genere. Diciamo che nasce proprio per lo studio ambientale, perché quello che ci piace studiare nelle radici in particolare sono le capacità di crescita, di movimento che hanno questi esseri viventi, che apparentemente sembrano sempre immobili, invece si muovono molto in maniera efficiente, lo fanno crescendo, quindi aggiungono materiale, in questo caso, nel caso delle radici, a livello della punta, e quindi contrariamente a quello che potremmo pensare, la parte che si accresce è quella più lontana dal fusto, quella più, anche se vogliamo, delicata. E questo lo fa perché altrimenti le pressioni, che sono molto elevate nel suolo, non potrebbero essere superate neppure dalle radici, no? Quindi noi andiamo a studiare esattamente queste capacità di accrescimento, di movimento, oltre alle loro capacità sensoriali, perché sono muniti appunto di sensori proprio a livello dell'apice e esplorano l'ambiente, quindi guidando anche la direzione delle loro radici. Per cui l'idea iniziale era quella del monitoraggio ambientale, cioè fare un robot che in maniera autonoma, sì, cerca inquinanti oppure anche acqua o altre sostanze di interesse come l'azoto, il fosforo, quindi sostanze di interesse in agricoltura ad esempio, no? Quindi ci dà informazione sulla qualità del suolo. E questa era l'idea. E noi sappiamo quanto ne abbiamo bisogno, perché abbiamo sentito, esatto, parlare tante volte di bisogna prima capire se ci sono veramente gli inquinanti, insomma, nella, esatto, terra dei fuochi o altrove, certo, intorno a dove sta l'Ilva di Taranto, per esempio, certo, perché anche semplicemente sui dati scientifici spesso ci sono divergenze di opinioni. Un robot come questo potrebbe sicuramente, potrà aiutare. Noi la stiamo seguendo un po' attentoni su questa descrizione scientifica, no, perché ma soprattutto sono 9.45. Domenica mattina, no, ci proviamo. Sono molto, è probabilmente una domanda stupidissima, ma stiamo parlando di una macchina, totalmente di una macchina, non di, sì, una, sì, macchina innestata su una pianta. No, stiamo parlando di una macchina. Ah, perché io stupidamente pensavo che in realtà voi è come se metteste un computer all'interno di una pianta. No, invece è che avete un computer che replica il, sì, il metodo di crescita delle, sì, piante. Sì, sì, diciamo che è l'area proprio di ricerca che è la robotica di ispirato, cioè robot che si ispirano al mondo della natura, tipicamente animali, questo appunto è il primo che prende ispirazione dalle piante, perché quello che vogliamo fare sono robot che si muovono nel contesto reale, quindi mutevole. E che, no, quindi possano veramente in qualche modo assorbire quello che è l'attitudine delle piante e riportarla, esatto, con una tecnica. Esatto. Ma come funziona? Che uno proprio pianta uno di questi robot in un punto e poi questo crescerà? Allora sì, di fatto ha un tronco, immaginatevi proprio una specie di albero, ha un tronco all'interno del quale vi è del materiale che viene aggiunto per deposizione. Immaginatevi una specie di stampante 3D, certo, che deposita, no, il materiale per fare la struttura, con la differenza che questa 3D è all'interno del robot, quindi non c'è una macchina che costruisce il robot, ma è il robot che si autocostruisce. E si costruisce sottoterra? e si costruisce sottoterra, no? Quindi con le stesse proprietà di crescita delle piante che, come dicevo, crescono dalla punta, cioè dalla parte più distante dal fusto, sì, perché altrimenti le pressioni sono troppo elevate e non riuscirebbero. Adesso, adesso con lei vogliamo affrontare anche il tema, dobbiamo dare il traffico, però dobbiamo fermarci, il tema poi di come le donne anche all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia, un centro di ricerca importantissimo, forse più importante in questo momento in Italia, a proposito di robot, teniamo conto che qui è stato messo a punto iCub, che è il robot, diciamo, una conformazione umana, uno dei prototipi più importanti al mondo. Con Barbara Mazzolai però anche il tema di come le donne se la cavano nell'industria italiana, nella ricerca e gli stipendi, il tema toccato dal Papa. Traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo in diretta con Si può fare. Io ho detto dopo Samantha Cristoforetti nello spazio, Fabiola Gianotti al CERN. Adesso abbiamo Barbara Mazzolai, che è coordinatrice del Centro di Microbiorobotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, una scienziata italiana importante di cui credo sentiremo ancora parlare. Però volevamo affrontare anche questo tema. Nel colloquio che abbiamo avuto prima di questa intervista ci diceva che, insomma, le donne all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia non se la cavano malissimo, ci sono abbastanza ben rappresentate. Assolutamente, nel gruppo che coordino io il 50% sono donne e hanno anche posizioni di responsabilità, quindi si va da dottorande fino a postdoc, fino a ricercatrici, che quindi coordinano a loro volta gruppi di ricerca. E questa è una realtà diffusa all'IT, più del 40% in tutto l'IT sono donne, e considerate anche che vi sono delle politiche per tutelare le donne e maternità, per cui per esempio il contratto viene congelato alle ragazze che entrano in maternità, e questo è importante perché l'età media dell'IT è 34 anni, quindi vi potete immaginare una situazione proprio, che si presenta spesso. Esatto, molto giovane. E è una cosa importante perché rimanere fermi nel mondo della ricerca non è positivo, no? Dobbiamo essere competitivi, e quindi il fatto che il contratto venga tutelato incentiva anche le ragazze a poter avere tutte e due le carriere, diciamo, quella del professionale e quella della famiglia, no? Quindi a non trascurare questo aspetto importante anche della vita. Quindi l'IT è molto attento a questi aspetti, perché appunto la presenza femminile è veramente importante. Ecco, questa diciamo, è la realtà dell'IT. Adesso poi possiamo parlare anche degli stipendi, per esempio, se a parità di incarico magari è difficile a volte anche fare il confronto. Perché poi comunque sono appunto posizioni, a volte ci sono anche incarichi aggiuntivi, no? Quindi non è facile fare un confronto, però assolutamente, come dicevo, non ci sono differenze, perché al momento in cui poi si arriva gli stipendi sono quelli, cioè ci sono delle tariffe, degli stipendi per dirigenti piuttosto che per ricercatori più giovani, no? Quindi in realtà non c'è una differenza tra però perché tra Barbara generi. Invece secondo lei il Papa può avere detto una frase del genere, e ci sono anche delle ricerche, dei dati statistici, certo. Ho citato un rapporto di qualche mese fa che tra l'altro colloca l'Italia non in una posizione pessima in Europa per quanto riguarda queste differenze di stipendi tra uomini e donne, che però persistono, ci sono, ci sarebbero, insomma, perché sicuramente è così, perché è una realtà che cioè ci vuole una volontà da parte di chi dirige poi organi di responsabilità, di avere in mente che le donne rappresentano comunque delle risorse importanti, hanno una visione diversa anche dal punto di vista, per esempio, io il mio mondo è la ricerca, e l'approccio alla ricerca è diverso, e è importante sia quello dei maschi, diciamo, quello delle femmine, quindi ognuno di noi apporta in maniera diversa, no, un contributo, è necessario valorizzare, tutelare le persone che appunto lavorano in un contesto, però questo significa che chi ha potere decisionale ha ben presente questa situazione, quindi ha una volontà proprio di tutelare anche il genere femminile. Purtroppo non sempre è così. Giusto. Siccome io penso che le donne siano più intelligenti degli uomini, devo dire che io vorrei che avessero un sacco di incentivi per poter lavorare nella ricerca scientifica, se devo essere onesto. Ma le devo girare una domanda di Federico Taddia, che mi scrive direttamente sul mio Twitter, che mi dice: chiedile del polpo robotico. Non so se è una domanda difficilissima, lunghissima, e le chiedo scusa. Saluto Federico. Il polpo robotico è un'altra, appunto, delle stranezze che abbiamo realizzato in passato, insomma, anche con altri colleghi del Sant'Anna, e in quel caso abbiamo preso ispirazione dal mondo animale e in particolare dal mondo degli invertebrati, il polpo, per realizzare un robot anche lì per l'esplorazione, però in quel caso del mare. E è il primo polpo al mondo, in questo caso robotico, che ha queste capacità, appunto, di movimento in mare, quindi rientra sempre nella tipologia di robotica bioispirata, no? Come certo, dicevo prima, che è un certo trend di ricerca che sta crescendo un po' in tutto il mondo, cioè fare robot che sono più vicini a noi, che si possono muovere in un contesto reale, no? Non industriale, in cui tutto è predefinito, no? Che è fondamentale, però non è il contesto dove noi viviamo, dove tutti gli esseri viventi vivono, cioè che è un contesto mutevole, appunto, no? Che quindi ci possono essere degli imprevisti, e robot, se ispirati al mondo della natura, possono essere più adatti a agire in questo mondo, no? Quindi il polpo rientra in questa categoria. Perfetto. di robot. Direi che siamo partiti dalle piante, siamo arrivati anche al polpo. È una roba adesso per esperti, perché quindi, se no ci viene fame all'ora di pranzo tra un po'. Ma il polpo robotico no. Non può far venire fame, non si no, può. No, ma cucinare. Solo l'idea, sai com'è. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie Barbara mille. Mazzolai, coordinatrice del Centro di Microbiorobotica dell'IT, di tecnologia. Abbiamo voluto raccontare una storia di una donna italiana, una scienziata importante che si sta affermando nella settimana in cui, insomma, il Papa ha rilanciato questa questione delle donne che guadagnano meno degli uomini. Certo, la ricerca è un ambito forse nel quale c'è più parità, almeno all'IT, come ci ha raccontato ripeto, lei. Spero in che altri ci siano ambiti più forse donne, non è così. Più donne possibili nella ricerca. 800 24 00 24, ascoltatori, se ci volete raccontare le vostre storie anche in questo ambito, noi siamo qua a tutto orecchie dopo il giornale radio delle 10, però non abbiamo il tempo per sentire un ascoltatore, no, forse velocissima. Laura da Venezia, 30 secondi. Buongiorno. Per rispondere al personaggio della settimana, chi è? Sì, buongiorno. Buongiorno. Per me è Obama. Why? Lo dico allora, in inglese, visto perché che Obama... dopo l'uccisione del ragazzo di Baltimora è intervenuto con un discorso in difesa del ragazzo che non della polizia, e ha parlato apertamente, è stato molto chiaro. La notizia c'è assolutamente, il personaggio non era lui, leader, è sicuramente un leader, ma non era lui. Grazie mille di aver chiamato. A dopo, GR. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Pulenta e galena fregia, e un fantasma in sulla veranda, barbera come petroli, e anche la luna mi par che sbanda. Trega che fa frecas, e buca verta che disnagut, tu ma la radio sgraffigna l'aria, e i pensi fanno un gran casot. Le menga fera che nel silenzio dorma d'un mala malinconia, le menga fera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia. In questa stanza senza orologi bala la fata e bala la stria. In questo sit senza la luce che ti stico sghedo malumbria. Sculta il vent che pica la porta, incrapa una nicula e in braccio una sporta. E il disco che ha dentro un bel regalo e sa che nel solito temporal sculta i spiriti, sculta i fulet, rampegano in sul muro i sol tempo del cassetto, canso i vestiti quando si ripenen, le fani ne fegnen, punta il bucer del vent. Davide Hernandez Frost in studio con noi, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Pulente Galena Fregia per iniziare. Che palle, sempre quella, sempre quella. Un cavallo di battaglia. Palle, sempre un'emozione invece, avere in studio la musica dal vivo è sempre certo. Stupendo e bellissimo. E poi un molto. Musicista, un artista come Davide che è già stato con noi, adesso è di nuovo qua perché vogliamo, era un momento bello, importante, a parte il fatto che, diciamolo subito, tra qualche giorno c'è il tuo compleanno. Ti roviniamo subito così la mattinata. Adesso? Cioè, no, beh, sì, vicini, siamo vicini. Siamo vicini. Beh, l'11, sì, è vero, l'11. Un numero importante, 50. Ma 50, stavolta sono 50, anch'io che sono discalculico me ne sono fatto una ragione, devo dire che 5-0 lo si ricorda facilmente. Eh sì, questo non si dimentica. Anni. Stavolta sono 50, non è male, ci abbiamo scherzato fino adesso, 47, 48, 50. No, ecco. Stavolta non si, stavolta dici, attenzione ai cinquantenni, a mezza età, adesso non si può scappare. No, 48, 49, no, 50. Pam, proprio segnatili così. Davide Van der Frost, perché a parte un appuntamento importante, bello, in proprio in pieno clima Expo l'11 giugno a Villa Erba, Cernobbio, lo spirito del pianeta, musica, cibo, energia per la vita, un concerto di cui parleremo con tanti ospiti, tutti nel segno della riscoperta delle radici etniche anche musicali da questo punto di vista. Davide Van der Frost, che ha appena concluso un paio di mesi fa il suo tour Terra e Acqua, che ha fatto proprio per avvicinare le città della Lombardia a Expo. Com'è andata? Sì, è andata molto bene, è stata un'esperienza che coinvolgeva una città al mese, siamo partiti nel mese di marzo, abbiamo finito nel mese di marzo e abbiamo girato tutti i capoluoghi lombardi, la serata, la giornata. Ma come una città al mese? Ogni mese una città, tu partivi, fai conto, tu potevi partire da Brescia, Bergamo, poi Cremona, Mantova, certo. E tutto quanto. Nella giornata lì c'era tutto il discorso mercatini, col diretti e via andare. Alla sera entrava in azione Davide Van der Frost con la parte finale, no? Il Dulcis in fondo. C'era questo palco sul quale io con due miei musicisti cantavamo qualcosa di nostro, sì. Proiettavamo dei filmati di quella città girati durante la settimana. Tutto questo, tra l'altro, diventerà anche un video importante, ne parleremo anche questo. Un video quasi on the road. E poi, cosa importantissima, venivano invitati sul palco almeno tre gruppi o tre personaggi musicisti a chilometro zero, ovvero della di città. Quel territorio, certo. Di quella città, perché insomma più chilometro zero di Davide Van der Frost, per quanto quando parliamo della Lombardia non ci può essere nessuno. A questo proposito poi ti voglio chiedere anche, insomma, la gente secondo te veramente si è capito questi temi di Expo, come, qual è stata la città più preparata? Ce n'è stata una dove ti sei trovato di fronte gente che veramente ti ha fatto delle domande o è intervenuta, ha capito? Milano forse? Ma io ho visto comunque sia, perché Milano per esempio è avvenuto tutto in un teatro molto ben preparato, predisposto, tra gli ospiti c'era Nanni Svampa che comunque è un'autorità, la gente non volava una mosca, io ho sempre visto un grande entusiasmo, yes. In queste serate di Expo Tour Lombardia ho visto una serenissima manifestazione composta da un manipolo di tre persone, uno striscione con scritto No Expo soltanto in quel di Mantova, laddove sono stati sei minuti lì fermi, poi hanno ripiegato la bandiera e sono andati, quindi avevano da fare, ma io comunque ci stava perfettamente, certo. Questo tipo di, però niente di caotico, niente che andasse a disturbare. La gente ha sempre gradito molto questo tipo di cosa, assolutamente gratuita, in piazza per esempio ricordo la data di Pavia, molto, anche lì molto, molto forte, molto. Io devo dire che hanno partecipato in modo possente in quasi tutte le città, se vado bene, forse un po', magari il quella data di Brescia all'inizio, perché era pomeridiana, in quanto alla sera, se non sbaglio, c'era il festival o qualcosa del genere, quindi era un orario un po' bislacco e non era magari pienissimo, ma... però devo dire che la gente c'è stata e ha capito cosa stavamo facendo. Stavamo mostrando tanti gruppi, tanta musica che normalmente non hai la possibilità, purtroppo, di ascoltare. C'è cioè una declinazione proprio musicale del chilometro zero, che è una delle chiavi con cui si sta interpretando il tema dell'alimentazione all'interno di Expo. Hai citato il tema delle proteste. Allora, visto quello che è successo a Milano, insomma, due giorni fa, in occasione dell'inaugurazione, c'è stato un tuo collega, un artista, Fedez, che aveva in qualche modo, prima di queste violenze, detto: io sto con i No Expo, secondo me ci sono motivi per criticare, eccetera eccetera. Qualcuno poi se l'è presa con Fedez dicendo: hai dato il destro a tanta gente di andare in piazza, qualcuno malintenzionato. Ti voglio chiedere, al di là del giudizio su Fedez, secondo te un artista, quando parla, deve stare attento a quello che dice, perché è seguito, perché ha gente che lo ascolta, lo prende alla lettera, oppure invece è giusto che uno dica: no, io ho delle ragioni per mettere, per criticare un Expo, per esempio, in questo caso, e lo voglio dire liberamente? Ma un artista sicuramente è anche un personaggio pubblico, sale su di un palco, ma non per questo deve rinunciare alla propria libertà di idea, di opinione. Ovviamente bisogna sempre anche capire la portata dell'arma che tu hai a disposizione, perché se spari con una balestra hai un rinculo di un certo tipo, se spari con un M16 probabilmente il rinculo è anche, anche la gittata è più. E poi soprattutto stare attenti magari anche come stai per dire una cosa, perché io, Davide Van Des Vros, posso dire: penso a questa cosa e personalmente mi prendo la mia responsabilità. Diventare portavoce agitato è un'altra cosa, ma non credo che Fedez abbia fatto questo. No, anzi, assolutamente, ecco. Vorrei anzi, che per correttezza, ricordare che in realtà Fedez dice: ci sono delle motivazioni valide per la protesta dei No Expo, e questo lo sappiamo, ci può stare, cioè, il che adesso... non c'entra niente con i 300 che hanno distrutto macchine e banche a Milano in Corso Magenta. Che mi aspettavo delle manifestazioni, dei cortei, probabilmente non mi aspettavo degli uomini senza volto, più o meno armati, per quanto potessero essere armati, andare a colpire alla cieca alcune vetture magari di persone che a loro volta erano No Expo, ma in modo pacifico magari stavano sì, questo è un bel paradosso. C'è stata l'attenzione quindi, di distruggere solamente dei gran macchinoni, che però è anche questo, non è un pensiero tanto saggio, perché a volte uno magari ha un macchinone e l'ha comprato usato e sta ancora finendo di pagarlo, quindi non è detto che un macchinone vuol dire, a parte che non è che essere ricchi non è assolutamente una colpa, quindi adesso come adesso i macchinoni ribaltati va bene, poi magari nel casino comunque sia ci potevano essere delle persone che per conto loro hanno bestemmiato contro Expo fino all'altro giorno. Io non mi vedo un'ombra che mi scende, che ne so io, da Amsterdam piuttosto che da Danimarca, che mi arriva sotto casa e mi brucia il giardino perché sono un pescivendolo che ha aderito a Expo, che vuol vendere 3 torote in più. Ecco, questa cosa qui grottesca mi fa sempre molto paura, perché diventa un'altra cosa. Che poi sì, Expo sia anche questo grande fantasma non ancora completato, che ha molto agitato le coscienze, perché poi diventa anche lo spettro di tante cose. C'è una doppia anima sul grande evento, la corruzione. Però anche non dare la possibilità, perlomeno, di buttare in vacca prima ancora di aver visto di cosa stiamo parlando. Anche questo è una cosa non da poco. Mi fa paura lo stesso. Il giorno modo dell'inaugurazione ancora nessuno sapeva cosa c'era dentro Expo, e forse per criticare bisogna conoscere anche quello che c'è dentro. Sempre belle le metafore di Davide Van Des Vros, il pescivendolo che vuol vendere 3 pesci in più, per parlare di tutto il giro economico che c'è intorno. E che si becca 3 olandesi che vogliono bruciargli il giardino, come sembra molto strano. Io ho visto comunque tantissimi pescivendoli che avevano un macchinone molto più grosso del mio, non per questo. Certo. E io, quando ho visto quella roba lì, indignato, sono andato e ho subito dato fuoco alla macchina del mio inquilino. 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete intervenire su questo, se volete chiedere qualche cosa a Davide Van Des Vros, se volete giocare con noi, ci sono già in linea Marco, Sergio e Giancarlo, li sentiamo tutti, però dopo il traffico ci fermiamo un attimo. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta si può fare. Cronache da un paese migliore. E quante impare ta ves l'userta, e sa se il sarà più se grossa ancamo. Quanche il ragnel tira la tela, sia l'acqua che il su la farambrila. Guarda trirundin che cule na roda, c'è penciola nigula de mila muschit. L'è una lama delius rifletuta, quella dell'onda che solta in selec. E quante impare da vessel caveden, te imparereta a vardanso il fund. E il punter se bagna, se l'acqua la dunda, la breva amata, la passa suga. O meno donna con tel sogno fa de paia, guarda con diec ma impara sarai. Impara la danza della margherita, impara curvas senza cepas. Brisa de nes, erba de bufalora, sabbia de fuente se un tron de culmenac. Gula, gula, gula fina tresenda, gula se in val cavarnia e al pian del divan. Davide Valdesfros, lo sciamano, questa volta sempre in studio con noi in diretta, 800 24 00 24. Ascoltatori, avete l'occasione, se volete, di fare anche una domanda a Davide, che insomma nei suoi spettacoli, con le sue canzoni, ha sempre un sacco di spunti, di cose interessanti. Questo sciamano, per esempio, ci porta in un mondo che è quello che rappresenterai anche nel concerto che abbiamo detto prima, l'11 giugno, una cosa sì, molto particolare. È importante, particolare. Mi sono già confrontato con gli amici che organizzano Spirito del Pianeta, e ogni volta è una grande kermesse di popoli, di usi, costumi, di prodotti. Io mi ricordo di aver conosciuto Shuzawizi, Pioggia di Fuoco, un asteco che poi ha girato con me in svariati concerti. Ho conosciuto dei Lakota, dei Sioux, e devo dire che ogni volta vedere che sul palco salgono questi personaggi, questi popoli, e mescolano la loro cultura con la tua, è un qualcosa di emozionante, perché adesso anche in modo infantile, in questo caso noi avremo i Masai, che vi garantisco questi non è che sono dei figuranti, questi sono proprio un popolo Masai pitturato di rosso con la tipica terriccio rosso, che arrivano in macchina già così, quelli dormono non è che si cambiano l'abito così, non è che faccio il Masai poi la sera vado in giro a fare il tuaia, cioè questi qui sono proprio i Masai veri, che arrivano quando sono entrati col pullman in una galleria, perché entrare nella montagna per loro era impensato, una follia. No? Erano proprio... avremo i Navajo questa volta, che adesso non vi sto a dire il nome del gruppo perché diventa impronunciabile anche. Immaginiamo. Potrebbe essere interessante. È interessante più fare lo spelling al del nome dei Navajo. Più facile dire il nome invece degli scozzesi, i Sour Patrol, che sono quel gruppo con cornamuse e percussioni, anche figuranti in film come Braveheart e roba del genere. Questi, ho visto una cosa su internet, stanno costruendo un forte in Scozia con i legni e tutto quanto, e sono dentro, quelli con la barba lunga, ma i capelli lunghi. Proprio dal punto di vista musicale, no? In serate come questi, io non ho mai assistito, magari l'11 giugno se riusciamo veniamo, si riesce poi anche a far suonare tutti insieme veramente? Noi abbiamo fatto quello. O è una follia assoluta? No, io abbiamo visto delle situazioni in cui ognuno suona la sua, poi c'è il momento, il mio concerto è solo un pretesto per coinvolgere questi, averli ad uno, ma che suonano con noi. Cioè io ti dico, OK, per esempio, la mia OK è sempre stata cantata insieme a nativi americani, aztechi, maya, incas e roba del genere. In questo caso lo sciamano potrebbe essere fatto insieme ai Sour Patrol, con tanto di cornamuse e di percussioni anglo-scoto-irlandesi. Anglo no, perché gli scozzesi non credo che amino quel termine, però... Dall'altra parte abbiamo anche quelli di Rapa Nui, dell'isola di Pasqua. La grande sfida è che dovranno costruire uno di quei craponi lì, come si chiamano, i Moai. E io sono troppo impreparato sulla geografia. Se non lo sei tu, Davide. L'isola di Pasqua, sai che ci sono quei faccioni? Sì, che, come no. Loro devono costruire uno in un materiale che non credo sia pietra, perché dalla mattina alla sera costruire un Moai ed erigerlo. Capito? Quindi tutto avviene con anche degustazioni, cose, piatti locali che saranno sicuramente. Tutto questo avverrà l'11 giugno a Villaerba, Cernobbio, un bel appuntamento. L'abbiamo già detto. Adesso, Davide, facci andare avanti anche con un po' le nostre cose. Abbiamo gli ascoltatori che dobbiamo assegnare questo, il premio messo a disposizione dai Comuni Virtuosi, quindi abbiamo qualcuno, esatto, che ci sta chiamando. Che non per... si dica dopo... che non vi lascio andare avanti. No, no. Ecco. Dopo, se c'è tempo, ci dovrai raccontare la storia della televisione vinta la lotteria, perché ci hanno mandato l'SMS. Non ne so niente, ma insomma, tu intanto preparatela. Preparati. Intanto abbiamo Marco da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Se posso ringraziare Davide innanzitutto per alcuni passaggi che ci ha lasciato nelle sue canzoni, tra cui Arbitro, arbitro, mi tira la maglietta, arbitro, arbitro, mi ruba la gazzetta. Alta poesia questa. Quindi questa poesia. Partiamo con il ringraziamento per Davide e poi Marco. Ha riso felice Davide. Faccio i sottotitoli. Meno male. E poi volevo indicare come leader della settimana, uscendo dagli schemi ancora una volta, Papa Francesco, che utilizza un canale prettamente non religioso per mandare un messaggio, come di solito la Chiesa non fa utilizzando questi canali. E in particolare a cosa si riferisce come canale non religioso? Al canale dell'Expo, che è un canale prettamente magari legato al consumismo, legato alla lei dice la sede, insomma la sede dell'Expo per lanciare un messaggio. Esatto. C'eravamo confusi sul concetto di canale. Anche il perché era in collegamento il Papa, non era qua a Expo. Se vogliamo c'era un canale anche lì. Marco, non è questo il personaggio, però ti ringraziamo di aver chiamato. Sicuramente come leader ci stava. Adesso daremo un secondo indizio tra poco, Carlo. Sì. Intanto però sentiamo Sergio da Ancona. Buongiorno. Buongiorno Sergio. Buongiorno. Cosa voleva intervenire? Sempre sul personaggio? Sì, sempre sul personaggio. Secondo chi è secondo te? Mr. Beach e Ball, il signore tailandese che vuole acquistare il Milan. Beh, un bel personaggio, personaggio sicuramente, c'è, anche lui, la notizia c'è tutto. È un grande leader? Non lo conosco così bene. Ma è un grande leader, è un grande magnate, diciamo. Beh, insomma, sicuramente uno che ha costruito un impero finanziario, che arriva qua a Milano e dice a Berlusconi ti compro il Milan. È appoggiato dagli arabi, qualcosa... dai cinesi, la madre, la prima donna in Australia per ricchezza. Chi? La madre di B? La madre di B. Ecco, la questo io per esempio non l'avevo letto. Però anche il personaggio non è lui. Non era lui. Grazie Sergio, grazie. Neanche a dire che ci stiamo avvicinando. No. Carlo, ti vedo senza parole. Giancarlo dalla provincia di Padova, e chiudiamo questo blocco con gli ascoltatori. Ancora sul personaggio? Buongiorno Giancarlo. Salve, buongiorno a voi, grazie che mi avete contattato. Niente, secondo me Berlusconi, come sta trattando la vicenda della vendita del Milan, che anche ieri ha fatto una retromarcia, invece di dargli il 49 tenesse lui, darà il 51 e gli dà a Mr. B il 49 facendo... Questo è stato detto per ora, poi chi lo sa, comunque, chi lo sa. E anche la sequenza di telefonate è perfetta, perché abbiamo appena avuto la risposta a Mr. B, adesso abbiamo dall'altra parte Berlusconi. Io avevo già in mente la mia risposta senza che ho sentito l'ascoltatore di giusto prima, giusto no, ma lo era sappiamo, un pensiero autonomo di Giancarlo da Padova, però anche in questo caso il non personaggio era lui. Non è lui. Do un altro indizio, diamo a un altro punto. Indizio cari ascoltatori all'80024 visto anche di quello di cui abbiamo parlato, della Cristoforetti, delle donne della scienza, delle donne pagate meno degli uomini, dico che il nostro personaggio è una donna e vai 80024 0024. Davide, puoi giocare anche tu, tanto tu non sai chi è il personaggio, però prima facciamo giocare anche un po' gli ascoltatori. Vuoi dire questa cosa? Ci hai pensato? Questa cosa che ti è stata chiesta? La storia della televisione. La cosa della televisione. Questa è stata una scena che è avvenuta parecchi anni fa in uno stupendo paesino in provincia di L'Aquila, prima del terremoto, dove noi siamo stati accettati, paese di 600 e passa anime, accettati come veramente dei beniamini, perché qualcuno aveva portato un disco e questo disco era stato virale, quindi anche le signore di 80 anni cantavano Cowboy, La Curiera, Polenta, Galena, Fregia, nei locali andava solo un'oasi. Ma è bellissimo un'oasi, questa storia. Un feudo misterioso desfrosiano nato in provincia di L'Aquila, e quella sera c'era una grande festa della birra, noi dovevamo fare il concerto, l'abbiamo fatto e alla fine finalmente qualcuno avrebbe vinto il mega schermo al plasma, uno dei primi, ma proprio di quelli belli, e tutti quanti aspettavano perché qualcuno avrebbe portato a casa il sogno proibito. Se non che quel personaggio che vedete di là dal vetro, Marco, che mi accompagnava sempre in quel periodo, che mi accompagna tuttora, che non ha vinto mai niente, neanche quando c'erano due biglietti alla festa degli alpini del suo paese, distrattamente si è reso conto che il plasma l'aveva vinto lui. E, cioè, quindi tu ospite del paese, ospite d'onore che si porta a casa, ecco, il televisore al plasma. E lui ha detto: no, no, lo rimetto. Non, l'ha subito voluto buttare via, è stato circondato e ha detto: no, tu adesso il televisore l'hai vinto, lo porti a casa, poi al prossimo autogrill, se vuoi, lo vendi. Ah, gliel'hanno voluto dare, butti, assolutamente. Ma qua lo porti via, perché sennò altrimenti qui succede un casino e noi non lo possiamo gestire. Era talmente grosso il televisore che noi viaggiavamo con un camper, ci stava perché avevamo il camper. Hai lasciato all'Aquila un paio di musicisti per far portare via il televisore. Assolutamente sì. Ci fermiamo per una breve pausa. Una vergogna tremenda. Beh, immagino. E uscire dal paese la mattina con tutti che ti guardavano, salutavano, contenti. Finto contenti, finto contenti. Se ne andavano... Il premio. Sono venuti qua. E adesso, adesso in quel paese ascoltano solo Guccini, comunque. Io credo di sì. Della sera, la luce dei lampioni su queste strade di cera, guidando verso nord in un lunedì da cani, comete di ricordi ad indicare il mio domani. Il tempo passa dritto, non prova nostalgia, e lascia dentro gli occhi l'amarezza e l'allegria. Generazioni in ciclo, con le loro convinzioni, che mescolano i sogni a una manciata di canzoni. La vita è un uragano che ci strappa le vele, un'autostrada in fiamme con curve di miele. È una tempesta, è un tuffo dentro un cerchio di fuoco. La vita è un gioco, la vita è un gioco. Dieci e 36 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Si può fare. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. In diretta con noi il sindaco di Rimini, Andrea Agnassi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Per parlare di una buona notizia, di un'iniziativa, anzi due, che riguardano la sua città. Però, sindaco, vorrei farle sentire il modo in cui introduciamo questa notizia, perché in studio con noi c'è Davide Van der Sfloss questa mattina. Salve sindaco. Che... Ciao Davide, che è in grado... anche dalle nostre parti. Bene. E siccome Davide è in grado di cantare anche un comunicato stampa, abbiamo deciso che ci canterà lui la notizia. La notizia. Sentiamo cosa ne viene fuori. Treno gratis a chi va in vacanza, a Rimini, Riccione, Cattolica e giù di lì. Basta sprecare tutti i vostri passi, ora c'è il sindaco Gnassi. L'ordinario. Ma numero due. Fate giocare i bambini nei cortili condominiali da ora. Il sindaco ordina così. Stupendo, stupendo. Volevo, volevo solamente aggiungere una cosa, sì. Perché prima quando Davide mi spiegava questa cosa, che lui è in grado di cantare qualunque cosa, diceva: per me il cantante impegnato è quello che prende il giornale e canta le notizie. E a testimonianza il servizio sociale leggendo, esatto. Che, piuttosto che quello che deve ascoltare i notiziari, che magari sono anche un pochettino difficili. Ed è perfetto. E gli abbiamo dato la notizia in mano più o meno un secondo 52 fa. Secondi sapeva, fa. Non esatto. Lo sapeva. Sindaco Gnassi. Ciao, buongiorno di nuovo. Eccolo qua. Buongiorno. Allora, sentito, insomma, è stato citato anche nella canzone. Iniziamo dalla prima notizia, che è, diciamo, una iniziativa del vostro comune, ma non solo. Riccione Cattolica, treno gratis a chi viene in vacanza da voi. Ci spieghi un sì. po'? Ma intanto potrei dire a Davide, se ci sta, che potremmo mettere anche il suo pezzo sui nostri siti, così oltre a vendere il pacchetto a mare in treno, mettiamo anche la promozione con la sua non, musica, che così non va, perde no. tempo il sindaco di Rimini. Momento proloco, abbiamo però, già fatto. Però poi negli alberghi vendete il suo CD, perché sì. insomma sì. qualche cosa no. bisognerà fare. Davide gratis in treno in Riviera. Si può mettere Davide gratis sul treno che si fa prima. Io faccio il giro della Riviera e canto. Se controlli anche i biglietti è perfetto, direi. Sì, sì, potrebbe essere. Sindaco. No, questa cosa di amare in treno, al mare in treno è un'idea molto semplice, cioè quello di incentivare la vacanza in Riviera senza auto. In realtà noi abbiamo un pacchetto di iniziative che comprendono il fatto che puoi prendere il treno Freccia Bianca, Freccia Rossa, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Lombardia. Se stai una settimana viene rimborsato il biglietto fino a 40 euro, se stai più di una settimana fino a due per 80 euro. Poi l'idea è anche quella di costruire, come dire, un'emozione, la possibilità di vivere il mare, l'entroterra, Rimini è una città romana, malatestiana, senza l'assillo dell'auto, per cui promuoviamo insieme al treno dei pacchetti famiglia, quindi se tu vieni con dei bimbi, sei una famiglia di 4 persone, fino a 12 anni su 4 persone i bimbi sono al 50%, quindi questo si può unire, cioè, diciamo il 50% del biglietto dei mezzi pubblici? No, questo, 50% abbiamo una serie di pacchetti. Sì. Se vieni in treno viene rimborsato il biglietto. Allora, abbiamo detto 40 euro, 80 euro andata e ritorno. Certo, se uno viene dalla Sicilia è un po' penalizzato perché probabilmente spenderà di più di 40 euro. Però, sì, però si ferma due settimane e ne prende 80, perfetto. Esatto. Però c'è anche l'andata e ritorno. Vabbè, comunque, insieme, questo è il primo. Ma che una pesciata del Q, eh? No, abbiamo capito, anche se era in dialetto. Altri pacchetti, pacchetto famiglia. Se è una famiglia di 4 persone con due bambini, i bambini pagano la vacanza in albergo al 50%. Ah, la vacanza vera e propria. Beh, questo è insomma ancora più significativo. Quindi esatto. Questa e cosa poi... la fate, scusi sindaco, la fate voi, la fate con i commercianti, diciamo chi dobbiamo chi ringraziare paga per questa cosa? Sì, esatto. La facciamo in una unione forte con le strutture alberghiere, con gli albergatori, con i comuni. Costruiamo dei pacchetti insieme di promo commercializzazione e i comuni della costa con il sistema degli operatori offrono appunto questa opportunità. Un'altra ad esempio è Welcome Family, abbiamo riunito tutti i family hotel della nostra riviera, della riviera di Rimini, e offriamo alla famiglia dei servizi ad hoc come l'animazione, la baby room, animatori per giochi e mestieri, dei laboratori creativi. E sono servizi speciali anche per lavanderia, per cucina, quindi un vabbè tutto insomma dall'A alla Z. Del resto si sa che se uno va in vacanza a Rimini l'organizzazione non manca, però non è che, però esatto, non è che lo fate perché c'è crisi, no? I turisti non vengono, non è che lo fate per questo, perché i turisti guarda, già vengono. Sì, i turisti vengono, noi non è che lo facciamo perché c'è crisi, lo facciamo perché adesso al di là della retorica io non è che posso togliermi questa S romagnola, questa S romagnola è il nostro carattere, è il nostro modo di porci agli altri, siamo una terra che ha dentro davvero insomma la voglia della reciprocità, di stare con gli altri, quindi è chiaro che in un sistema sempre più competitivo se riesce a dare i servizi ma anche col calore e l'emozione questo fa la differenza. Giusto, ma ci racconta anche il progetto di aprire i cortili condominiali per farci giocare i bambini? Perché questa è una notizia che a me personalmente proprio fa... Io ho le lacrime agli occhi perché il cortile oggi come oggi è virtuale, è un iPod, è un iPad, è una PlayStation. E invece... Ritornare a sentire, se per me gioca il balonche! Esatto. Io voglio questa cosa bellissimo, felliniana. Bellissimo. È bellissimo, anche a me mi si è aperto il cuore, però ci racconti. Ma sì, vabbè, a parte che ognuno di noi ha tirato una spallonata e magari ha rotto anche qualche vetro, ma l'idea è molto semplice. Guardate che noi in Italia siamo un paese che è ammantato di retorica, i più grandi giacimenti culturali, paesaggistici, poi però abbiamo contesti urbani degradati, cioè l'Italia nel secondo Novecento è stata trainata da un modello costruito sull'adulto, automunito, che come dire ha il diritto di sopraffare gli altri nelle città. Abbiamo consumato territorio, la rendita immobiliare e dentro quest'idea di città c'è il fatto che i bambini come dire sono quasi un accessorio. Noi abbiamo scritto una lettera agli amministratori di condominio, abbiamo approvato un regolamento di polizia urbana che di fatto toglie il divieto del diritto di gioco ai bambini fino a 12 anni nei luoghi pubblici, nelle piazze, nei cortili. Cioè l'idea complessiva, come dire, di una città che esce dal cemento, che investe sulle piste ciclabili, sui piedibus, sul fatto che un bambino ha il diritto di andare a scuola magari con i suoi amici a piedi, in sicurezza, in bicicletta, è un'idea complessiva che, come dire, si può fare in Italia. Tra l'altro mi faccia dire solo una cosa, sindaco, perché voglio aggiungere, diciamo, la mia piccola testimonianza, ma credo che chiunque potrebbe dirlo. Nel mio condominio, in effetti, ci sono problemi sia per parcheggiare le biciclette sia per far giocare i bambini. Io non ho partecipato di recente alle assemblee condominiali, ma ci deve essere un regolamento, qualche cosa da qualche parte che impedisce. Quindi c'è un inghippo. Voi siete intervenuti per rimuovere questo inghippo e dire negli orari giusti, nelle modalità giuste, eccetera, eccetera, però lasciamo, diciamo, in priorità il fatto che questi bambini, se ci sono ancora da qualche parte, e ci sono, possano andare a giocare tranquillamente. Qual era l'inghippo che avete rimosso? Ma l'inghippo è sancire proprio nel regolamento di polizia urbana, sancire il fatto che noi togliamo il divieto di gioco, perché di fatto oggi, come ci è capitato anche da bimbi, c'è qualcuno che ti rimprovera, ti rimbrotta, il bimbo non sa neanche perché non può giocare, arriva l'amministratore, l'adulto che ti dice basta, andate via, non puoi giocare, e il bambino prende, poveretto, molto spesso e se ne va. Noi oggi abbiamo poi studia legge e capisce che in realtà quell'adulto non aveva diritto. Proprio nel libro della Costituzione del bambino c'è scritto il bambino ha diritto di giocare al gioco. Però ovunque. Lo scopre quando ha 30 anni e si è laureato in legge, allora torna indietro e fa causa all'amministratore di condominio. Esattamente, per questo motivo ci siamo sentiti in dovere di raffermare il diritto al gioco anche nell'ambito del regolamento di polizia urbana. È un fatto, come dire, politico, di principio, il fatto di una città, guardate, noi siamo in riva al mare, parliamo sto dialetto rovesciato con questa S, come dicevamo prima, però le esperienze urbane urbanistiche più avanzate in Europa, quelle del nord Europa, di Stoccolma, di Copenaghen, le puoi tradurre anche col tuo dialetto. L'uscita dal cemento, dalla rendita immobiliare farà sì che noi innoveremo quest'anno, tra un mese, faremo i bandi per i nostri nuovi lungomare, i lungomare a Rimini sono nati nel 1800, e toglieremo le auto e costruiremo delle palestre a cielo aperto. C'è un'idea di città che deve riprendersi i luoghi della cultura, gli spazi, e poi passare anche da grandi, piccoli interventi che riaffermano il diritto del gioco, due calci al pallone in un cortile, anche perché in quel cortile, come voi spesso magari potrete anche constatare, se l'adulto automunito arriva e lascia la macchina, magari in divieto di sosta, non gli si dice niente. Se c'è un bambino che gioca con una palletta, confermo, è quello che accade nel mio cortile di condominio. Esattamente nel mio ci sono le torrette con i vopo sopra, proprio i cecchini appostati che sparano i palloni, non sui bambini, ma sui palloni. Sì, però sindaco, è molto bello anche sentirla dire che se per sbaglio un ragazzino rompe un vetro all'interno di un cortile non è poi così grave, il vetro si ripara e pazienza, non è la fine del mondo. Esatto. Grazie Gnassi, grazie il sindaco di Rimini, grazie mille per essere stato con noi. Complimenti anche con i complimenti di Davide Van de Sfros. C'è da dire che ci sono altri comuni che si sono mossi in questa direzione, per esempio credo che proprio anche Milano recentemente abbia fatto una cosa del genere sui cortili condominiali. 800 24 00 24, su questo, sul gioco ci risentiamo anche con gli ascoltatori tra pochissimo e con un'altra canzone di Davide. Monge, alimenti naturali per cani e gatti con tanta carne fresca italiana, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Lo abbiamo promesso. Si può fare. Si può cantare il giornale. Londra che sogna un'altra Lady Di, via la sfida delle regionali, campagna bufera sui nomi PD, storico poker e Juve per sempre. Allegri il trionfo della serenità, la partita più bella di Serie A. Moschino Fragrance for Men. Ma questa è una pubblicità, non si può. Anche le pubblicità. No, adesso la prossima volta ti sfidiamo a leggere e a cantare il Sole 24 Ore, che è più difficile. Ci sono i numeri, voglio sapere come fai a cantare le cifre. Non credo che tema la sfida, mi sembra bravissimo su qualunque titolo. Allora, ascoltatori, vediamo se riusciamo ad assegnarlo questo weekend a Monte San Pietro, offerto dai Comuni Virtuosi alla ricerca di un personaggio della settimana. Abbiamo Roberto che chiama da Firenze. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego. Allora, secondo me il personaggio è la moglie del principe William, Kate. Che abbiamo appena letto nella notizia cantata di Davide Van der Sfross, neomamma. La notizia c'è. Mamma per la seconda volta. Sul fatto che sia leader dipende. Sul fatto che sia lei il personaggio della settimana, però invece siamo sicuri che non era lei. Non era lei. Grazie Roberto per aver pensato a noi, comunque per aver chiamato. È un'altra donna il nostro personaggio. Gianfranco da Torino. Gianfranco? C'è? Non c'è? Pronto? C'è? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì. Cosa volevo? Io avrei due risposte. Solo una ce ne può dire. Solo una. Dico Malala, il premio Nobel, quella ragazza pakistana premio Nobel. Come no? Ma perché questa perché settimana? Perché in Pakistan hanno condannato i 10 attentatori all'ergastolo. È vero, ed è una grande notizia. Siamo contenti del personaggio che ha scelto, perché volevamo raccontare questa notizia. Poteva essere questa, ma non è il personaggio che avevamo scelto. Diciamo, abboccando Gianfranco, Roberto. No, Gianfranco, sì, ci ha dato la possibilità di dare anche questa notizia. Maria Luisa da Lecco. Ciao, pronto. Ciao. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie. Vi seguo tutte le domeniche. Bene, allora, continua così. Vai, cosa volevi dire, sì, Maria Luisa? Volevo dire che per me il personaggio può essere Emma Bonino, che è stata una grande leader, una grande politica ed è stata chiamata anche dal Papa questa settimana, che la voleva supportare per la sua malattia. Non so esattamente su cosa si sia spesa questa settimana, però so che è stata chiamata dal Papa e poi so che ha fatto gli auguri a Pannella ed è comunque per me è una grande leader. Beh, tutto giusto, tutto corretto. Purtroppo non è il personaggio che abbiamo scelto, ma la notizia c'era, il personaggio. Mandiamo un grande saluto al personaggio, a Emma Bonino. Emma Bonino. Vedi quante cose vengono fuori con questo gioco, tutte le notizie della settimana che riemergono grazie al gioco. Chi abbiamo ancora in linea? Sì, Paola da Torino. Paola. Sì, sono io. È lei, noi siamo noi. Benissimo, vi ascolto sempre, notte e giorno. Ah, però. Ha un'altra ascoltatrice notturna, questa cosa io la devo capire, perché ci ascolta la notte? Anch'io con l'auricolare per non disturbare il marito. Possiamo rimischiare le coppie, però quello forse lo facciamo davvero. È vero, il signore di prima con lei, ascoltate la radio e così i vostri coniugi a letto. Si risparmiano cuffiette. È vero, ma perché così non disturbo. Poi mi piace di notte, non c'è pubblicità, non fila diritto. E tra l'altro non è una replica, siamo proprio Alessio ed io che ripetiamo esattamente tutte le stesse parole dette di giorno. Quindi non l'avevo capito. Ci dica allora, tutto, ci dica il personaggio. Secondo me non è stata una leader, però lo sta diventando. È la mamma americana che ha preso ceffone il figlio, che partecipava a una manifestazione per il ragazzo morto in prigione in America. Una grandissima notizia. Sai che io avrei detto qualcosa del genere. Davide la sapeva. La notizia bellissima non di questa. Non ho voluto saltare fuori. È giusto, ha vinto signora. Questa mamma straordinaria che è andata a riprendere il figlio dicendogli. Lo diventerà un leader. Sì, ma speriamo. Sicuramente nella sua famiglia è un leader, perché una donna così è già un leader dentro una famiglia, ma è importante perché il video ha fatto 50 milioni di visualizzazioni. Quindi la conoscono in tutto il mondo in questo momento. Sarà una banalità, ma se in tutte le famiglie ci fosse un leader così, probabilmente ci sarebbero meno, possiamo dirlo, coglioni che vanno in giro a distruggere Milano. Ma però meno coglioni che fanno anche un sacco di altre cose, al sì, di là compreso della, quella, senso compreso che il bello quella. Di vedere sta mamma che lo prende proprio per la collotola e che sembra quasi dirgli che cosa stai facendo e gli tira dei pestoni. E la cosa straordinaria era la faccia del ragazzo che era incredulo. Prima era cattivissimo con i poliziotti, pronto a spaccare il mondo, ma di fronte la mamma è sempre la mamma, è questo, l'autorità vera, la quale Sì, anche da noi, giusto rispetto. Anche da noi effettivamente ci sono madri molto dure, tanto più che la notizia sul lago ultimamente è successo che un figlio ha dovuto intervenire e è andato a prendere a cefone una mamma che stava incendiando un cassonetto proprio, per cui addirittura lì vanno anche oltre. Sì, sì, sì. Meno male. Paola, grazie. Intanto grazie. Le comunico che vince il weekend messo a disposizione dai Comuni Virtuosi a Monte San Pietro, c'è Ricchette, un bed and breakfast ecosostenibile. Grazie anche ai Comuni Virtuosi che come ogni sabato e domenica ci aiutano, insomma, a regalare qualche cosa agli ascoltatori. Siamo in chiusura. Davide, vuoi fare due note così di saluto, di congedo? Sale, scende la marea e riporta la sua ridera, un sedele, una ciabatta e una tuleta di Red Bull. Sandokan con tel mojito, el billet con se l'invito, Sandokan che ha imparato che si può fare. Ah, bellissimo. Bella, questa è per bello. Il promo del programma. Grazie Davide Van der Sloss. Ricordiamo il prossimo concerto sabato 16 maggio a Fontanetto d'Agogna a Novara al Fenomeno, seconda tappa del Van der Sta Tour. Detto bene? Ma sì, benissimo. Si può dire quello che si vuole. Il tour di Van der Sloss d'estate. Io invece ricordo solo una cosa, sì, che il mio book tour di Fossi in te, io insisterei, che è il mio primo libro, riprende settimana prossima, sarà anche, credo, dopo questo. Secondo me sì, tutti me lo chiedono, ma è come se avessi appena partorito, quindi è come chiedere a una puerpera se vuole un altro figlio. Non poniamo lì, esatto. Il 6 maggio sarò a Bologna alla Feltrinelli Red alle 18 e il 7 maggio sarò a Roma, quindi sono agitatissimo, arrivo nella capitale. Con Fossi in te io insisterei. Io invece sarò sempre qua sabato prossimo 7:30-10 con Si può fare. Grazie a tutti, Andrea Piana che ha scritto insieme a noi il programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, insostituibili in redazione, Lorenzo Nespoli oggi in diretta con noi, Carmelo Larucella in regia. Ciao a tutti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini e grazie a Davide Van der Sloss. Ciao a tutti voi e agli amici a casa. Ciao. Ciao.